Alfa, ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone. Une. Al distorsore, Enzino, Nino. Vabbè, non è che si può fare tutto nella vita, Però impegniamoci, Enzo. È venerdì, 21esima puntata, anno domini terzo, 24 giugno 2016. Piazza Alta, l'inizio della fine, come dico sempre oggi, io. L'hanno detto in tanti, anche in ambiti oltre Manica, oltre Manica. Ma non è questo l'ambito per parlare di ciò. Questa è Piazza Alta, dicevamo, stabbiamo. Perché guarda che stabbiamo, Stabiolo, potremmo anche rientrarci. Stiamo per iniziare una nuova puntata. Ecco, appunto. A proposito di Stabiolo, il caldo è infinito e per cui mancheremo fisicamente a un certo punto della puntata. Enzo, stasera puntata, non dire altro, al galò, non dire altro. Beh, inizia a correre. Via. La prima canzone è Buon Ascolto dalle F Frequenze, poi pi, pi, pi, pi. I'm a special, but I won't regret it now. Red Hot Chili Pepper con Soul to Squeeze. Era il bellissimo, il bellissimo. 1993. Beh, questa finalmente finalmente sta cominciando a seguire adesso che stiamo finendo i miei consigli musicali. Ma infatti si sta abbassando il livello. No, sto scherzando ovviamente. Ed ecco che la seconda cuffia se ne va. Questa è Radio F, questa è Piazza Alta, è la nostra 21esima puntata del terzo anno, l'abbiamo già detto, scusa. Ma siamo sempre sulle magiche frequenze 89.2 di Radio F. I nostri radioascoltatori ci possono sentire anche in streaming su www.radiof.it. Ci possono, sì, prego. Per chi, tanto l'hanno già fatto tutti, hanno scaricato la nostra app sia per Android che Apple. Radio F, ma possono fare anche di più, caro il mio Marci. Sì, telefonarci in diretta al numero tradizionale 0575 648276. Senti, amici. Ok, ma possono smessaggiarci al 392-4900-800 e possono dire quello che pensano soprattutto di te. Ma stasera, se proprio dovete, stasera grandissima puntata. È vero, Enzo, ci stiamo elevando e stasera forse abbiamo la creme cara, la creme creme delle manifestazioni, come dire, italiane. Ma sì. anche oltre chiaramente. Direi che parliamo del Palio di Siena stasera, e quindi non c'è da girarci troppo intorno. Anzi, più stai zitto, forse è meglio. Ci risentiamo per i saluti finali. No, allora. Lo facciamo in un modo diverso, però. Sì. Diverso perché la carriera, la corsa, la vediamo tutti. Se abbiamo la fortuna di essere a Siena oppure se no, in televisione, sono sulle reti nazionali. Sono quei secondi su cui si scarica tutta l'organizzazione, la passione, le tensioni. Invece noi vogliamo sviscerare, noi svisceriamo e entriamo dentro la contrada, anzi dentro le contrade. Cercheremo di farvi vivere un po' quella che è la vita di contrada, l'atmosfera sia dei giorni che precedono la gara, ma un po' anche quella di tutto l'anno. E con chi lo facciamo, caro? Degli stessi contradaioli. E ne abbiamo due che ringraziamo, perché tra l'altro per essere qui ci rendono hanno veramente fatto chilometri onore. Per essere qui da noi hanno sopportato anche Simone, beh sì, a cena tra l'altro e che non è poco, e sopportano te ora, per dire, meno che male che ci sono io, insomma, che sei un po' poco. No, a parte le battute, abbiamo con noi, vuoi dire te? Che... Certo, io ho l'onore di avere con me Elena Saladini. Ciao Elena. Ciao. Allora, diciamo la puntata. Sì, lo diciamo, poi tanto la serata si dipanerà al di fuori, diciamo, della singola specifica contrada. Che fa parte, è una contradaiola del Bruco. E abbiamo Filippo Ricci, che è della contrada della Pantera. Ciao, buonasera. Buonasera, grazie davvero per essere qui con noi. Ci addentreremo insieme a voi appunto nel quello che forse in tanti non conoscono, cioè la vita di contrada, che qualche volta ho avuto la fortuna, insomma, di vivere, ma marginalmente, però si mangia veramente bene, io direi. Tra gli altri cuori. Tra l'altro ho mangiato in entrambe le contrade, quindi posso dirlo tranquillamente, super pars. Ma ti volevi parlare di una contrada in particolare? No, sto scherzando. Assolutamente, no, volevo dire una cosa che... forse tutti aspetti che dica, e mi fa piacere dire che appunto si parla di storia, tradizione, competizione, ma soprattutto di una ragione di vita. Lo dovevi dire prima, va bene. No, se no arriviamo alla fine della trasmissione e non l'ho detta, me lo rimproveri. Bravo. Era una frase intelligente, presa sicuramente da internet. No, se l'ho scaricata sicuramente. Ora dicevo questo, quando hai finito, iniziamo subito a parlare con i nostri amici Elena e Filippo, e io vi faccio un paio di domande, proprio quelle base che servono per capire, per far capire anche a Marcello che se lo capisce lui vuol dire che abbiamo raggiunto lo scopo. Allora, io sono per il pensiero base, il binario, basico. Diciamo. Basico. Allora, io vi volevo chiedere, la prima cosa è il primo ricordo che avete della contrada. Chi inizia, Elena? Facciamo così per cavalleria. Giusto? Il primo ricordo della contrada è estate, da bambina ritrovo con il gruppo piccoli e giochi nascondino, ma un nascondino da... si contava fino a 32, cioè fino a 320, perché se era 32 persone a giocare a nascondino. Un nascondino di generazione dove forse la più piccola ero io e il più grande era 15 anni più grande di me, nel senso, quindi un nascondino generale, ecco, proprio. Filippo? Mentre per noi maschietti la cosa è un po' differente, perché il primo vero ricordo ce l'hai quando metti la montura della contrada. Vediamolo. La montura è il vestire un una montura, un abito esattamente fatto in velluto, calzamaglia logicamente in cotone, almeno vedi particolarmente indicato, è un velluto, velluto e seta, ecco, mettiamolo così. E il primo ricordo ce l'hai quando appunto metti, ti vesti per la prima volta per il giro del, durante il giro del rione, il giro della comparsa per il santo patrono. Poi sì, che c'entra anche da più piccolini nel gruppo piccoli, durante l'estate quando fa il campo estivo con la contrada, sì, anche lì sono ricordi, però ecco, per un ragazzo il primo ricordo vero, il primo ricordo vero è un po' un'emozione, insomma. Esatto, tra l'altro l'investitura è più la prima sbornia, ecco. Dopo il palio, dopo il palio vinto, ecco, c'è il battesimo del vino. Il battesimo del vino è importante. Quello è importante. Sono passaggi che anche vengono dall'antichità, certo. Ma c'è gli spartani a un certo punto. Il battesimo, tutti e due avete parlato di gruppo dei piccoli, quindi, guarda, l'avevo scritta come seconda domanda: era proprio quali sono i passaggi nella contrada? Cioè, avete. Dopo la neonatologia, dopo essere nati, usciti dal reparto. Il primo atto qual è? Il battesimo? Il battesimo in Tradaiolo. Esattamente. Dopo in che consiste, scusate? Il battesimo traiolo si fa nella fontanina della contrada. La fontanina, perché ogni contrada ha una fontanina con lo stemma della propria contrada, e lì durante la festa del santo patrono, il priore della contrada, che è colui che diciamo per tutto l'anno comanda la contrada, battezza con l'acqua della fontanina i nuovi arrivati. Così la stessa cosa succede anche. Sì, noi abbiamo una figura diversa dalle altre contrade. Quasi tutte le altre contrade hanno il priore, noi abbiamo il rettore, perché la nostra tradizione contradaiola è un po' diversa dalle altre contrade. Quindi noi abbiamo questa figura che è il rettore. Che però il gesto del battesimo in Tradaiolo è la stessa cosa, no? Anche noi abbiamo una fontanina battesimale, viene letto come una specie di, cioè qualche riga di investitura, viene dato una pergamena di ricordo, il fazzoletto, che poi è quello che uno si porterà dietro tutta la vita. Cioè, veramente la gelosia verso il fazzoletto del battesimo, almeno per quanto riguarda me, è estrema, imbarazzante. Per quanto riguarda tutti, è imbarazzante. Il togliersi, o comunque il regalare il fazzoletto, non regali mai quello che ti viene donato al momento di questa, chiamiamola, di questo battesimo. È per noi un segno di appartenenza, è molto sacro. Beh, come diciamo che magari per chi sapeva già è una riconferma, ma per chi non conoscesse il palio si inizia a capire bene l'attaccamento alla propria contrada. E ci vuole tempo, ecco perché si parte da piccolini e ci vuole anche tutta una vita per cominciare a partecipare, a essere protagonisti dei contrari. Io ho avuto la fortuna di vedere un po' di pali, sono stato anche in qualche contrada a seguire gli ultimi giorni, eccetera, e sono avvenimenti veramente emozionanti, ma ne vorrei parlare più avanti. Però ecco, volevo fare una domanda. Ovviamente la contrada si vive tutto l'anno, certo. E quali sono ad esempio i punti, le vostre, nello specifico nelle vostre contrade, gli appuntamenti più importanti dell'anno, a parte quelli che proprio sono a ridosso del palio? Perché parlavi prima per esempio di un patrono, cioè ogni contrada ha il suo patrono. Sì, certamente, si parte, ogni contrada ha il proprio patrono, per cui si parte da l'ultima domenica di maggio, forse. Sì. No, la prima di maggio. La prima di maggio. Gira prima, esatto, di maggio. La prima di maggio con il santo patrono della contrada del Val di Montone, per poi arrivare fino alla all'ultima settimana di settembre, con le ultime due contrade sono l'Aquila e la Lupa. Ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse che le contrade sono 17 e che corrono 10 alla volta. Poi spiegheremo anche perché al limite perché corrono in 10 e come fanno a essere queste 10. Io direi comunque di fermarci un attimo. Se sei d'accordo, puoi fare una domanda intelligente? No, non l'avevo ancora preparato. Infatti, era chiaro. Allora ci ascoltiamo una canzone, caro il mio Marci, che ha a che fare con l'argomento, se ben ricordo, vero Simone? Sì. Puoi dire anche di sì? Con l'argomento patrono. Chi può dirlo? Allora andiamo e io vado a bere qualcosa. Bene. Fai il tuo battesimo del vino. Vado. Thank you. con tutto il mio inglese, who's gonna ride your wild horses? You do it. Ma che ridi, scusa, l'ho detto bene. Sì, no, ma è una risata, ma diciamo, meno di moda oggi l'inglese, Ma molto meno di moda oggi l'inglese, sì. Ma caro, non ti ha colpito, guarda, questa notizia della Gran Bretagna? Ma vedrai che ti colpirà. Abbi fede. Se non ti ha colpito oggi è perché non ti ha trovato. Ma caro Enzo, fuori onda, cose interessanti, amabilmente discorrendo con Filippo ed Elena. E infatti continuiamo con i dischi e ne parliamo. Sono venuto a sapere delle cose veramente interessanti. Che le diciamo anche ai nostri amici. Certamente, ma le reintroduco proprio per questo. Sei qui un po' per questo. Ho scoperto che il palio è maschio. Il palio di Siena è maschio. Sì. Ma questo più chiaramente per tradizione. Ma ho anche capito che la contrada non è soltanto rievocazione o storia. A quello che ho capito è anche una cosa viva, cioè magari ci vogliono i decenni o i secoli, ma in evoluzione. Allora chiedo a Elena se per cortesia ci reintroduce un po' questo argomento. Il palio maschio che vuol dire? Vuol dire che il palio fondamentalmente è fatto dagli uomini, cioè si monturano gli uomini. Quindi le figure principali, le figure importanti. Sì, le figure principali proprio del palio sono fatte da uomini. Poi nel palio c'è la meritocrazia, nel senso, se sei comunque una persona che merita e può fare qualcosa, anche se sei donna puoi farlo, non è. Però cioè quando sei in piazza e porti addosso i colori della tua contrada, quello è una cosa che può fare un uomo, una donna non lo può fare, almeno nella mia contrada non è previsto questo. In altre contrade solo, io almeno ho visto solo per una manifestazione che è la processione del Cero, e alcune contrade monturano le ragazze per portare il cielo, i ceri che vengono donati alla Madonna che è al Duomo, però solo in quell'occasione lì. Cioè in una passeggiata storia una donna monturata con i colori della propria contrada non c'è perché è fatto da uomini. E questo un po', Filippo, ci dava una spiegazione, sì, del perché. Perché effettivamente le contrade non sono altro che compagnie militari a tutti gli effetti. La storia ci dice che appunto Siena, sappiamo tutti la battaglia fra Siena e Firenze, fra Guelfi e Ghibellini, per cui ecco da lì si hanno queste compagnie militari. Vengono poi suddivise nelle 17 contrade che sono oggi da Violante e Baviera, la quale suddivide appunto il territorio della città su 17 rioni. E questi rioni, in questi rioni poi, da questi rioni si estrapolano le varie compagnie militari che danno poi il nome alla contrada stessa, effettivamente. La contrada più che altro il nome glielo dà, per prendere la mia, la contrada della Pantera, glielo dà lo stemma preso dalla città di Lucca. Ah, addirittura. Sì. E mi dicevi prima che anche durante la parata storica, la passeggiata storica, quelli che sono i personaggi principali, il personaggio di spicco, sono non solo quelli più forse appariscenti, come potrebbero essere, hai detto, gli alfieri che sono il tamburino, in realtà il personaggio più importante è il capitano del popolo. E che funzione aveva? Era colui che comandava appunto le truppe per le varie battaglie. Difatti il palio, la corsa in sé per sé, non è altro che una battaglia, certo, sostanzialmente. E però diciamo in tutta questa lenta evoluzione qualche cosa ogni tanto si muove. Ho forse capito che c'è qualche contrada che dopo secoli, ma con calma, qualche apertura sembra che la stia anche un po' facendo. Sì, ma perché, cioè, allora, il palio è vero che è tradizione, però poi i tempi cambiano, le persone cambiano, quindi deve andare al passo con i tempi, senza perdere però quello che è l'anima della contrada. Cioè, non bisogna mai scordarsi da dove siamo partiti. Questa contrada giustamente aveva questo, hanno una figura diversa dalla mia e da quella di Filippo, perché hanno invece di un priore o di un rettore hanno un governatore, e hanno regole molto, cioè era una contrada dove le donne non entravano nemmeno in contrada, e ora invece sono arrivati che dopo secoli e dopo anche una battaglia importante, perché senza stare a rimarcare, insomma, ci sono state vie legali, insomma, sta una cosa dura, sì. Sono riuscite però ad avere questo diritto al voto all'interno della contrada. Attenzione, tra le donne di quella stessa contrada erano comunque divise, qualche donna non voleva avere questo diritto, cioè non è stata una cosa facile, però poi insomma secondo me alla fine, cioè non è nemmeno così dannoso per la contrada, cioè nel senso, se te non perdi di vista, non perdi mai la tua identità, questo poi cambia poco. Cioè no, nel senso, anche perché poi la storia, loro hanno avuto una grossa contraddizione, perché nella loro storia hanno avuto un capitano donna. Stiamo parlando della contrada dell'Oca. Della contrada dell'Oca. Hanno avuto un capitano donna. Voto, ma un capitano donna. Ma cioè, si parla però di anni intorno alla guerra, dove il capitano era una figura che veniva anche scelta al di fuori della contrada, perché doveva essere una persona facoltosa. Ecco, ricordiamo un attimo, solo per dare dei punti di riferimento a chi ci ascolta e non sa, i vari ruoli. Cioè, il capitano, qual è il ruolo del capitano all'interno di una contrada? Il capitano è il ruolo che il capitano insieme a Mangini sono quelle figure che fanno il palio. Cioè, possiamo dire, tanto per far capire, il direttore sportivo di una società di calcio, il capitano è colui che comanda la contrada durante il palio. Il periodo del palio, sì, i 4 giorni di palio, perché durante tutto l'anno appunto abbiamo visto le figure del priore, del governatore, del rettore, insomma ci sono, in base alle contrarie ci sono altri, in vari modi, esatto, però diciamo il ruolo, altri tipi di figure, esatto, per poi andare a scendere dai vicari all'economo, che è colui che detiene i beni mobili ed immobili della contrada, fino ad arrivare al seggio vero e proprio e a finire il popolo. Voi avete avuto o avete in questo momento dei ruoli ben precisi all'interno della vostra contrada? Sì, Filippo? Io a oggi sono vice economo di società, quindi addetto al bar. Bello. Non a caso hanno mi scelto piace me. Questo vice economo, pensavo tutta addetto al bar, addetto tutta al bar. La mia stima ovviamente. Ma presumo a me non che... mi ci mettono mezzo addetto al bar, te lo sai. Rimetterebbe la contrada del presumo gruppo. Che sì, se disegnano una persona, diciamo, morigerata, è una funzione che ha la sua importanza. Sì, sì, sì, c'è il rifornimento del bar, che è importantissimo. Specie nei giorni di palio, dove ovviamente specie se dalla parte di là c'è gente come me, rifornitelo, sì. Il bar. Esattamente, per cui c'è chi beve e c'è chi lo rifornisce. Giustamente, Elena, tu invece... Io lo bevo rifornendolo. Per esempio, te assaggi il rifornimento? Molto bene. Esatto, ma esatto. Per esempio, nel tuo caso, sono delle mansioni che danno prestigio oppure allora, c'è bisogno di qualcuno allora, che le faccia perché comunque devono essere... Secondo me a livello contrariolo, diciamo che tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile. Nel senso, il contrariolo semplice che non ha la voglia oppure il tempo materiale di potersi prendere un incarico, ma che però tutto l'anno è presente, tutto l'anno dà una mano per il montaggio, lo smontaggio dei tavoli durante le cene, i servizi al bar e quant'altro, è comunque importante quanto colui che si prende un incarico o in contrada o in società, essendo poi divisa la cosa. Ma secondo me questo è fondamentale proprio perché sì, ci sono quei ruoli di prestigio eccetera, però è veramente per portare avanti, poi diremo un po' di numeri tanto per far capire anche questo, è fondamentale proprio per la sopravvivenza, certo, della contrada, ma anche per far capire quanto sia l'attaccamento dei contradaioli, per cui essere capitano o essere vice economo oppure quello che mette solo i tavoli ha lo stesso valore, perché beh, lo stesso valore nel senso che per chi lo fa con la stessa passione. Certo, assolutamente sì. E il capitano logicamente ha un input diverso. Certo. Nel senso, è colui che gira, è colui che parla con i fantini, è colui che parla con le altre contrade, è colui che in un qualche modo deve cercare di portare la vittoria alla propria contrada. Il contrariolo semplice è colui che fa la movimentazione di tavoli, seggiole. Però la passione è la stessa. La passione ci deve essere, se non c'è quella è inutile che comunque sia prendersi un incarico o addirittura venire in contrada, nel senso. Volevo domandare, se non hai domande intelligenti, Marcello. Ce l'ho, ma la dico dopo la tua, così risalta ancora di più. Ancora di più, bravo. Elena, volevo chiedere, non voglio entrare troppo nella competizione, però è comunque una parte che affascina noi profani. Intanto, anzi, prima faccio un'altra domanda, questa me l'ha suggerita Simone nel pomeriggio, quindi stai calmo, Simone. Sei preoccupato, ma no. Sono 10 minuti. Allora, la sensazione, la rielaboro ovviamente, sì, la sensazione, con parole mie, di noi non senesi è che, passatemi il termine, a voi senesi e contradaioli, del fatto che noi ci si sia oppure non ci sia, noi che, insomma, che noi non ci si sia, a voi non ve ne frega niente, nel senso che voi lo fate per voi stessi, non è che vi serve il pubblico. Poi il pubblico c'è, immagino che vi faccia piacere. Dimmi Elena, prova a dirmi te poi. Allora, a me sinceramente ti do ragione, nel senso, non è che, allora, non deve essere, che sono già in analisi, è un rifiuto da parte tua. No, potrebbe essere deleterio. Alla fine ti invito, ma forse è anche la forza di questa manifestazione, evidente. Nel senso, il palio c'è da 400 e passa anni e ci sarà anche quando non ci saremo più noi e non ci sarà nemmeno più la gente ben a vederlo ora. Allora, a noi, almeno questo è un pensiero mio, a me non mi interessa spiegarlo a chi non vuol capirlo, nel senso, se sei interessato e ti fai una domanda e dici ma che cos'è, poi ti può non piacere, ti può piacere, questo è un altro discorso, io non te lo voglio nemmeno imporre perché non è giusto, però se sei interessato e sei aperto a sentire che cos'è, a renderti conto di persona, vieni, perché il palio uno lo vede la sera dalle 5 e mezzo alle 8, però il palio è 4 giorni di fuoco, ma nei giorni indietro e per tutto l'anno comunque poi si prepara il palio, perché il capitano tutto l'inverno tiene rapporti fantini. Quindi se una persona è aperta a conoscere una cosa nuova, poi si tira le sue conclusioni e prenderà le sue scelte, farà le sue scelte, ben venga. Se non sei aperto, non importa. Amici come prima. Non importa. Se non sei aperto, però ci vuoi mettere bocca e ne parli male, allora ti dico, aspetta, stai a casa tua, gira a canale, perché comunque non ci interessa quello che dici. Questo più o meno è il pensiero mio. Secondo me riassume bene. Sì, hai risposto molto bene. Cioè, t'ha detto... No, vabbè, non lo posso dire. No, ma resta, lo dico dopo fuori. Dobbiamo andare con un altro brano. Staremo a parlare e basta, ma purtroppo Simone vuole mettere ha voluto anche scegliere brano, dei brani stasera, quindi, no? Vuole mettere anche musica. Battute, mettiamo un po' di musica e noi facciamo un bagno in piscina. Poca, E torniamo subito. Yeah. awesome. Angel looks down at him and says, "Oh, pretty boy, can't you show me nothing but surrender?" Jonah gets up, takes off his leather jacket, takes to his chest. There's the answer. We got 10 lives and 10 lives. Which place to burn? Which place to burn? They cry, they scream, they not to pay. I push it through my brain. Cavalli, caro il mio Maccerò, stiamo veramente per ora non abbiamo parlato di cavalli, però è il tema di Horses era il 1975, Radio F ancora non era nata e Patti Smith, come scrive il nostro Simone nelle sue note, è la poetessa del rock, apocrife chiaramente, apocrife ovviamente, dava il titolo all'album Horses. Horses, l'album Horses. E da quando ha cominciato a viaggiare nell'etere questa canzone? Dal 1976. No, un po' prima. Appunto, prima sì, ma da Radio F dal 76. Per forza. Oh, stiamo sempre parlando di Palio, di Siena, più che altro stiamo parlando della vita delle contrade e che è affascinantissima. Ne stiamo parlando da circa 40 minuti, ma ancora non riusciremo praticamente a parlare di tutto quello che vorremmo. Faremo il prossimo anno. Sono in programma altre 120 puntate, esatto. Ma le vogliamo distribuire un po' con nel calma. Tempo. Eravamo. Anche perché Elena giustamente ha detto: il palio c'era, c'è e ci sarà. Anche quindi quando c'è non... tutto il tempo per anche farlo. Quando non ci sarai più, caro Marcello. Ma potrebbe essere anche almeno. Fare a breve, ma no, ma no, dai, ci mancheresti. Questo vorrò sperare. Almeno questo. Chi ti riporta a casa? Lo so. Dopo questa interessantissima parentesi. Si chiamano prospettive. Bravo. Torniamo a parlare con Elena e Filippo della vita di contrada. Ci sarebbe veramente tanti aspetti di cui parlare, perché poi mentre parlate fate degli accenni a cose che sono interessantissime. Ma ce n'è uno veramente poetico che nel fuori onda un po' ci hanno raccontato, che è quello della scazzottata. Il romanticismo però, qui viene fuori. Guarda, posso fare una prefazione, perché detta così sembrerebbe una cosa violenta. Ora, dire che è in amicizia non sarebbe vero, no. Però da quello che riesco a vedere io fa parte proprio dei giochi, cioè non è che succede e rimane un astio per quella scazzottata lì. L'astio c'era prima e rimarrà dopo, voglio dire, cioè, no, fa parte dei giochi, no, anche no, perché no. E poi ti lascio la parola, lo dico sempre per chi magari non lo sa, esistono contrade che fra di loro sono nemiche. Non tutte le contrade hanno contrade nemiche, infatti Elena, che è del Bruco, non ha ufficialmente contrade nemiche. Nemmeno ufficiosamente. Rivali. Filippo invece è una rivale. Ma prima cioè, di dare la parola a Filippo, gli faccio un'aggiunta sulla domanda. Esistono degli scontri, delle scazzottate casuali? No. Casuali no. Vi chiamate o allora no. No, sto scherzando, no, rientra in quello che è i quattro giorni di palio, certo, e rientra nello sfottò, rientra nel canzonarsi a vicenda, ovviamente mettendo in risalto chi fra di noi è più bravo e più bello, ovviamente. Ecco, mettiamola così. Sempre nell'ambito della chiacchierata, logicamente succede, perché succede, fa parte della storia del palio, esattamente. Non c'è violenza, nel senso che il 90% delle persone che ti trovi di fronte sono persone con cui hai condiviso la scuola, l'averci giocato a pallone insieme, il giocarci a pallone insieme, anche se a 40 anni bene o male no. Ci si prova, ma rivendico il fisico e quello è le ginocchia, esatto, i menischi, per cui però ecco, finisce lì, cioè non c'è un astio, un non è personale, esattamente, non è personale, questo è importante, beh, cioè, esatto, dà un po' di colore, allora sì, no, mettiamola su questo piano. L'essere contradaiolo e la contrada ti scorre dentro, cioè è quando uno prende fuoco per qualcosa, cioè prende fuoco, cioè t'agiti, t'arrabbi, ti innervosisci, e qui è uguale, cioè è passione, è solo quella, esatto. È passione, è far parte di una cosa e viverla, cioè ce l'ha dentro, non si può spiegare, nel senso è una cosa che ce l'hai, punto, cioè ci sei nato, ce l'ha dentro, e d'inverno se esce una sera dove vai? Si va in contrada, cioè non è che si va al bar, si va in contrada, poi si va a prendere il caffè in contrada, ci sta mezz'ora e poi rivieni via, però è così, cioè è quello che si diceva fuori onda, è la famiglia, cioè è un punto, è tuo, cioè fa parte di te. Io so di persone, uomini e donne, che si sono sposate fra contrade e rivali, no? Cioè, che però mi dicono che durante i 4 giorni del palio dormono in case separate, addirittura, sì, non in letti separati. Sì, può succedere, ora succede, no, parecchio meno. Faccio per far capire, però che comunque prima durante gli succedeva. Altri giorni, diciamo, giorni dell'anno non è che con non il ti divorzio parli. Breve ha facilitato un po', se no, no, è proprio una questione di, ma non di non volersi vedere, perché logicamente fra moglie e marito, certo, ma poi ogni scusa è buona per stare 2 o 3 giorni, no. Però ecco, però effettivamente in quei 4 giorni c'è, magari c'è la parolina di troppo, per cui si arriva più facilmente al litigio, ecco, giusto, mettiamolo, giusto. Cioè, quando torni a casa, come ti può fare, hai visto, ti sei lasciato al canapè, finito, stai calmo, da lì uno riesce, fa, vabbè, ci avvocato. Vediamo domani. Volevo dire vorrei poter entrare di più nello specifico, ma purtroppo il tempo è veramente poco, quindi provo a fare delle domande. Abbiamo detto i 4 giorni precedenti il palio sono l'apice della vita della vita di tutto un anno intero. Il palio c'è a luglio e ad agosto, quindi i senesi sono abituati a non andare al mare, esatto. Cioè, questo è l'ultimo fine settimana, la anche perché domenica del senese è la seconda quindicina di luglio o la prima settimana d'agosto, ma già lì ci sono le previsite, sì. C'è un po' di, comunque ecco, questo la è l'ultimo fine settimana di, considerato poi che domenica pomeriggio il 99% dei senesi rientra perché c'è la presentazione del palio, del trappellone. Perché non del palio, esatto. Il palio è l'istituzione, il drappellone è poi il premio, che il cencio? Esatto, il cencio. No, perché io ho studiato, ma ho paura di sbagliare, sicché le dico sottovoce. Il cencio, si sbaglia il cittino, anche noi, nel senso, ecco, al momento della vittoria, subito appena vinto, viene chiamato il cittino. Perché è appena nato. Perché è appena nato. Esatto. Tra l'altro mi viene in mente che noi trasmettiamo da Foiano della Chiana e un piccolo legame c'è anche fra Foiano e Siena, sì. Perché i buoi che trainano, esatto, il carroccio dove il cencio viene esposto nel corteo iniziale sono proprio di qua. Di Foiano. Di Foiano. Sì. Quindi sì, insomma, sì, sì. Oh, lascia perdere. Qualcosina ci sarà. Di bestie. No. Questo cosa porta avanti. Io faccio ancora delle domande random che mi vengono in mente. Io conoscevo una persona a Siena che aveva la sfortuna o fortuna, questo uno dite voi, di abitare davanti a, ora io dico stalla, però non ve la prendete, il posto dove stava il cavallo, stalla in contrada. Era un incubo, nel senso che ci sono delle regole ferre, vogliamo raccontarle un attimo. Nel momento in cui avete il cavallo a disposizione, arriva in contrada, raccontate quello che succede, perché per voi ormai è normale, per noi è... Allora, noi ora, cioè, l'abbiamo... Io dico solo una cosa, vigeva il silenzio assoluto. Ma non stai scherzando? No. Stai scherzando? Cioè, ragazzi, il cavallo non ci può disturbare. No, perché mettiamo un punto chiaro, e forse non è così chiaro per tutti. Il cavallo una volta dato è quello. Se il cavallo non può correre il palio, non, la contrada non corre il palio. Non è che te lo danno un altro. Quindi il cavallo è sacro. Cioè viene, se si può non si fa camminare, perché chi può dire può succedere. Quindi questo è il punto importante. Ora, loro forse sono un po' più agevolati a livello di... Loro di pantera. Loro di pantera a livello di urbanistica. Noi sa 3 salite così, e quando... s'aveva la stalla in cima al, a Via dell'Orti, che è una salita con il 12% di pendenza, lo portavate in collo? No, toccava spengere il motorino e spingerlo, perché sennò il cavallo si veniva disturbato dai motorini. Quindi la fatica era importante, nel senso, però tutti non si discuteva questa motorino cosa. Motorino spento, ci credo si che tirava su. Senti, nel senso, questo è, ora noi abbiamo cambiato di poco, di veramente 3 metri la stalla, quindi prima era più vicino alla strada, ora è più sotto, è in una zona più, più silenziosa. Le transenne sono all'arco del Viale dell'Orbani, più o meno, cioè si entra poco più là, e quando si entra e c'è il cavallo, comunque l'abitudine di noi più grandi è c'è il cavallo, si passa tutti in silenzio e è così. Il barbaresco, io sudo, ma non solo per il caldo, fai bene. La leggenda narra che dorma con il cavallo. Dorme con il cavallo. Per 3 notti sta con dorme il cavallo. Dorme per voi lui, è normale. Cioè, lui e i suoi 2 vice barbareschi, più volendo qualche volta è risuccesso anche il veterinario stesso. Ecco, viene perché approntata una stanza in emergenza con le brandine, loro per qualsiasi esigenza che il cavallo possa avere sono lì a disposizione. Ora io, guardate, so che ci sono tante altre cose più sacre eccetera, però questa cosa qua a me mi affascina, quindi vi devo fare delle domande che possono anche sembrare stupide. Il palio è un mistro tra il sacro e il profano. Per cui immagino che l'alimentazione del cavallo non è che sia controllata, l'assaggerà proprio il barbaresco quello che mangia, nel senso ma si informano prima, cioè non è no dal proprietario senso, sanno già qual è la dieta del cavallo che deve seguire, poi comunque sia c'è un veterinario lì 24 ore su 24 che segue, comunque gli fa analisi, comunque lo controlla, lo visita ogni minuto per cercare di mantenerlo al meglio possibile. Questo ve lo chiedo anche perché le polemiche che si ripetono di quando in quando, no? Da parte di animalisti, ma senza entrare nello specifico, in realtà ascoltando queste parole che io metto come battuta, ma in realtà fanno capire l'amore e l'attenzione che avete per i cavalli, altro che il mancato rispetto. Cioè, perché in quel momento conti, Enzo, il palio senza il cavallo non esisterebbe. Cioè, tutto il lavoro è finalizzato a che il cavallo renda il meglio, per rendere il meglio vuol dire trattarlo nel miglior modo possibile. Perché poi il palio fondamentalmente lo vince il cavallo. Sì, esatto. Ecco, tra l'altro ho una domanda, vedi, ma quando vince una contrada con il cavallo scosso, no? Quindi il fantino è caduto, ma poi il fantino viene portato lo stesso in per toglierlo forse dalle grinfie? No, ma no, in trionfo, come capita. Sì è capitato, sì. Ora è capitato. Sì, qualche di solito contrada, poi nel giorno dopo dietro c'è anche il fantino. Ah, ecco, quello sì. Comunque, ma pensa, per assurdo, il cavallo se perde la spennacchiera davanti non viene riconosciuto da 3 giudici di gara, perché ci sono i giudici di gara che decretano la vittoria. Se non viene riconosciuto, il cavallo può non vincere senza la spennacchiera, senza colori di riferimento della contrada. È il cavallo che porta i colori della contrada. Sì, se voi avete visto. No, li porta anche il fantino. Sì, anche il fantino. Però quelli che contano sono quelli del cavallo. Sì. Nella testiera del cavallo c'è una spennacchiera, un oggetto che è proprio sulla testa, fra le orecchie del cavallo, che ha i colori della contrada. Quindi, ed è quella la cosa fondamentale. Poi il cavallo è la cosa fondamentale, però poi logicamente dovesse perdere i finimenti, ecco che appunto, come diceva Elena, ci sono questi 3 giudici che lo devono riconoscere, nel senso, nel caso di un palio con cavalli scossi, tanti cavalli scossi, è possibile che quello che arriva primo e non ha i finimenti possa non vincere il palio. E voglio vedere come escono i giudici, ma a parte no. Allora, invece escono, perché alla fine è giusto, c'è questa regola, è detto, scritto, esatto, è così, esatto. Simone, io direi, io parlerei ancora per... se ci vuoi allietare. Ma no, allietare no. Brevemente. Stiamo scherzando, andiamo con il prossimo brano. Tra l'altro bellissimo, lo dico, ma io la mia ignoranza in genere è sconfinata, però in genere sono bellissimi. Ah, questo è bello, non lo vai, vai, vai Simone, vai. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, meraviglioso, il 1971, e si erano gli America, e questo era un cavallo senza nome. E devo dire che sembra che Simone stia attraversando un periodo proprio di evoluzione, di maturità. Perché grazie, Marci, il 2% delle canzoni di questa edizione questa sera ti sono piaciute. No, forse è la quarta canzone in tre anni, in 75 puntate. È la frequenza che mi stupisce. Su quei 500 canzoni, 4 ti sono piaciute, non è poco. E una sera non c'era, figurati. forse era concentrata lì. E una la scegliesti, te, mi ricordo. E non ti piacque. Ma a parte questo, stiamo sempre parlando, noi stiamo arrivando in fondo, del Palio di Siena, e lo stiamo facendo con Filippo ed Elena, contradaioli da sempre, nati in contrada, vivono la contrada. Stiamo facendo un po' un volo ad ampio raggio, parliamo un po' di quello che... Sì, veramente, senza rete. Bravo. Punti di riferimento se non quello del Palio. E della curiosità nell'ascoltare i racconti che per loro, per i nostri ospiti, sono quotidiano. La quotidianità, per noi sono... pendiamo dalle vostre labbra. E siccome siamo arrivati all'ultimo intervento, ci dicevamo proviamo a parlare anche 2 minuti 2 della prossima settimana, cioè stiamo entrando in quei famigerati famosi 4 giorni. Sì. Filippo della Pantera ci diceva che è a riposo, ma mai a riposo. Mai. Perché corre la rivale. Perché corre la rivale. Che non si nomina. e invece Elena è noi corriamo, non abbiamo la rivale, quindi voi non avete la rivale in generale, nel generale, quindi noi però corriamo, sì, che aspettiamo, ecco. C'era una rivalità, ma è stata c'era poi... ormai non c'è, ecco, più. Come però non abbiamo tempo, però velocemente, cioè, perché c'era una rivalità e non c'è più? Avete fatto la pace, come penserei? Abbiamo fatto la pace perché loro hanno voluto la pace, nel senso, ma allora avete accettato, ma noi si è accettata perché, cioè, il possiamo noi dire siamo... anche il nome degli altri oppure no? Meglio di no. Benissimo. Noi non esistono più. No, no, non stiamo scherzando. No, no, esistono, però siccome vorranno noi li nominiamo. Ah, ok. No, a parte le battute, però un anno è successo un episodio un po' sgradevole e noi il problema è che noi il rapporto è intorno ai, cioè, noi se siamo 100 loro sono 15, quindi alla fine non divertiva neanche, no. il problema è che non è che non divertiva, cioè lì esagerarono, esatto, e diventò un po' pesante. Allora venne subito la dirigenza di questa contrada a dire è stato un errore, è stato, ci fu un paio d'anni di rapporti tra le dirigenze per chiarire, per calmare gli animi. Alla fine diciamo che è finita questo essere nemici e ci apriamo le chiese, ci spieghiamo le bandiere come con tutte le altre consorelle. E però ecco, sì, sono diventata una consorella come le altre, quindi non siamo più nemici. Ora indubbiamente non è che, cioè, io sono cresciuta con loro come nemica, quindi non sei credibile. Però sono poco credibile, però nel senso, no, non è nemmeno vero bello, però nel senso non faccio battute io, per l'amor di, cioè, so come quell'altri, però sono sempre loro, ecco, cioè, nel senso sono un po' meno. Quello sì. Però, facciamo mezzanotte, abbiamo deciso di fare due ore, no, Simone, non possiamo. Vabbè, allora faccio un'altra domanda velocissima. Ma io visto che aveva introdotto un po', esatto, l'argomento, vorrei giusto sottolineare una cosa che a me sta a cuore, che secondo me distingue un po' i nostri territori, la nostra storia, è che con Elena che diceva che la contrada è una famiglia, prima ti era scappato che in questi nei periodi estivi le contrade si organizzano per i campi solari, i campi estivi, mi ha dato il là per chiederti, diciamo, a livello proprio anche di organizzazione interna di ciascuna contrada, come dà servizi, dà assistenza, aiuta ai contradaioli. Allora, questa cosa c'è perché le società sono nate come società di mutuo soccorso, quindi quando si stava peggio in società i contradaioli si davano una mano, nel senso, chi non aveva da mangiare andava in contrada e trovava da mangiare, trovava chi gli dava un piatto di pasta. Queste cose nel tempo si sono evolute perché comunque la gente, la ricchezza è aumentata delle famiglie, sono cambiati i tempi, tutto, però non si è persa l'identità della società, nel senso, c'è un gruppo donatori di sangue dove vengono fatte regolarmente donazioni di sangue, dove vengono mandate anche richieste in caso di bisogno tra contradaioli, ci sono il gruppo piccoli e comunque serve per far venire i bambini in contrada e iniziare così la vita del contradaiolo, fargli capire che cosa vuol dire. Una volta finito che escono dal gruppo piccoli, c'è il gruppo giovani, che comunque serve sempre come punto di aggregazione, e lì diventa una cosa un po' diversa, perché sei giovane, non sei più un bambino, allora si inizia a montare tavoli per i ragazzi, le ragazzine iniziano a fare servizio alle cene, quindi inizia, c'è a tutta responsabilizzare. Questa, esatto, sì, esatto. E a viverla anche di più, e a viverla e a capire come si sta incontrando, perché alla fine, ora io faccio un esempio, lui la vive giustamente da ragazzo, la vive in un modo diverso. Noi quest'anno si è fatto il corso di bandieraie, cioè siamo andate a imparare a cucire le bandiere, e nella tavolata c'era generazioni diverse, cioè c'era dalle ragazzine di 18 anni alle donne di 70 che ci insegnavano, e c'era tutte le fasce d'età. E vedere interagire una signora di 70 anni che ride al racconto di una ragazzina di 18 che racconta che è stata al mare, cioè racconta una battuta da 18enne, interagire, vedere questo scambio, cioè questa è la vita di contrario, che è il famoso concetto di famiglia, cioè nel senso di trovare di darsi una mano, cioè poi alla fine. Anche perché se si considera comunque i bambini non è che hanno i genitori appresso. Siamo comunque noi più grandi, noi adulti, che si seguono e si cerca di farli integrare in quello che è la realtà contro la viola. Quindi è di fondamentale importanza anche chi è dalla parte del più grande, quindi persone a cui viene affidata una crescita di un ragazzo, quindi con tutte quelle sono le problematiche del ragazzo stesso, dal bambino al ragazzo di 14, 15, 16 anni, e comunque è nell'età della ribellione, e quando gli viene detto o imposto magari di montare i tavoli, è una scuola volte, di vita. Esatto, è proprio una scuola di vita. Beh, guardate, il rammarico è tanto perché avremmo voluto parlare di mille altre cose, però è anche, io sono molto soddisfatto. Abbiamo di molti spunti per... Esatto, abbiamo fatto uno spaccato di quello che è realmente la vita di Contrada, che non è appunto solo quella punta di iceberg di noi che guardiamo alle 6:30 del 2 luglio e del 16 agosto la gara. Anzi, io, il mio invito è questo: la prossima settimana ci sono i famigerati 4 giorni che precedono il Palio, anzi compreso il Palio. L'invito è chi può di andare a Siena a viverli nel miglior modo possibile, perché come diceva Elena e confermava Filippo, loro sono ben lieti di accogliere chi ha voglia di viverla e di ascoltare questa cosa. Noi lo faremo. Perché no? Prendiamo ora sul capire abbiamo delle difficoltà. No, sul capire, sul viverlo ci mancherebbe altro. Quindi l'invito non è andare al Palio, tanto lì ci vanno tutti, ma ad andare i giorni prima a vivere, a vedere come si vive il Palio prima, nei giorni precedenti. Abbiamo appuntamento per quando? Non lo so, perché in realtà venerdì prossimo sicuramente facciamo festa. Luglio è un mese comunque particolare. Seguiteci sui nostri canali, sulle sentirete parlare. Sentirete parlare di Marcello. Speriamo nei bene. Mesi ci sono delle, insomma, problemi. Le foto segnaletiche, esatto, in giro. Tribunale, insomma, non lo so, comunque che cosa verrà fatto. L'appuntamento quindi è prossimamente. Bravo, ecco, tocca fermo. L'appuntamento è per prossimamente. Ringraziamo Elena Saladini, grazie Elena. Ciao, e Filippo Ricci, grazie davvero per essere stati qui con noi. Simone, vuoi dire qualcosa? Ma anche no. Bravo, non lo dire. Beh, sempre parole con un certo contenuto. Ringraziamo anche Lorenzo che è stato qui con noi in silenziosa attenzione. Non ha dato noia, ha dato più noia a Marcello, che ringrazio personalmente. Vuoi dire una frase che rimarrà per sempre? No. Quindi finiamo così. Grazie a tutti per essere stati con noi. Viva il Palio, viva Radio F, viva Enzo. Buon ascolto. E Marcello. Andiamo con la sigla bellissima. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica, alle riprese video, al volume delle cuffie Simone. Une. Alle prossime. Ossime. Su Radio F. F. Marcello. Bello.